Chiuditi a riccio, non leggere più niente, ma se proprio non ce la fai, ti consiglio Flow di Yuki Urushibara, edito da Dinit. Un fumetto leggero leggero come l'aria o come la vibrazione sottile di una superficie d'acqua. Con una coppia particolare di protagonisti, insieme al loro gatto, specializzati a risolvere piccoli enigmi quotidiani legati alla flussificazione degli spazi, questi Flow che finiscono per distorcere qualunque cosa. Un esempio? Strade che si moltiplicano, case che all'improvviso spariscono, stenditoi che volano via, scalinate ripide che non finiscono mai. Come sua consuetudine, l'autrice mette in scena questi piccoli paesaggi urbani che confinano con il verde, con l'acqua che bagna ogni cosa e questo cielo terzo in cui lo sguardo si perde. La realtà incontra il sovrannaturale e impara a conviverci. Le tavole ariose di Yuki Urushibara, grande autrice conosciuta in tutto il mondo per Mushishi, sono un sogno ad occhi aperti. Talmente belle che senza accorgersene si finisce a galleggiarci dentro. Flow è la lettura perfetta per un'estate all'insegna dell'empatia e della leggerezza, intesa in senso calviniano. Vendisi casa infestata di Grady Hendrix, pubblicato da Mondadori. Il romanzo è l'ultima pubblicazione italiana dell'autore americano che, come nel bellissimo Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, sempre per Mondadori, prende un trope tipico dell'immaginario horror e ci costruisce intorno a un romanzo apparentemente confortevole ma in realtà terrificante e parecchio ad alta tensione. L'altro mio consiglio invece è il recupero di un manga, se come me avete visto solo l'anime, in questo caso di Soul Eater di Okubo Atsushi, che è in uscita in una nuova edizione per Panini. Si tratta di uno shonen che mette in scena streghe, armi magiche, ma che parla anche di follia e salute mentale. Questo in vista anche dell'ultima stagione di Fire Force, sempre opera di Okubo, che pare aver collegato le sue due opere principali. Cadavere squisito, di Agustina Bazzerrica, Eris Edizioni. In un futuro forse non troppo lontano, non è più possibile cibarsi di carne, perché tutti gli animali, allevati ma anche selvatici, sono stati infettati da uno strano virus. Gli stati di tutto il mondo hanno dovuto prendere provvedimenti, abbattendo intere specie animali e causando non solo l'assenza di carne commestibile, ma anche il crollo finanziario di un settore con un indotto fino a quel momento estremamente florido. Il veganesimo sarebbe la scelta più logica, direte voi, e invece si adottano soluzioni più drastiche. In tutto il mondo infatti cominciano a manifestarsi episodi di cannibalismo. A nulla servono critiche e contestazioni, perché i governi attraverso la stampa e la divulgazione scientifica stravolgono il linguaggio e trasfigurano la realtà per renderla meno mostruosa, ecco diciamo più appetibile. La macellazione di carne umana diventa legale e le persone sono lotti da macellare, impacchettare e consumare. Marcos, il protagonista della storia, lavora nel commercio nato intorno a quella che per noi sarebbe un'aberrazione. È con lui che viviamo in prima persona la deumanizzazione dei nuovi capi da trattare. Per lui lasciare l'attività di famiglia, da sempre nel mercato della carne, sarebbe impossibile, soprattutto ora che è stato mollato da sua moglie, deve provvedere a mantenersi e a pagare la casa di riposo di suo padre. Marcos si è rassegnato a cambiare prodotti e a venire a patti con la sua coscienza per adattarsi alle nuove richieste. Cadavere squisito, lungi dall'essere il gioco di carta inventato dai surrealisti, è comunque un universo allucinato che prende di mira i meccanismi ipocriti e abietti del capitalismo, gli allevamenti intensivi e il rapporto estrattivo che abbiamo con la natura e gli altri, a cui è facile assuefarsi. La narrazione è cruda, brutale e non tralascia nulla, spolpando il lettore pezzo per pezzo. Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Però se proprio devi leggere qualcosa ti consiglio Trincerate nella carne, di Lucia e Gagna Rojas. Letture intorno alle pratiche della post-pornografia. Un saggio edito da Meltemi e parte di Culture Radicali, una collana diretta dal gruppo Ippolita. Te mi dirai, e mo che è il post-porno? Il post-porno è, diciamo, una pratica che entra in polemica con la normatività della pornografia commerciale. Vuole occupare uno spazio, lo spazio pubblico, per rendere visibili corpi e pratiche sessuali che sono marginalizzate. Però è anche una forma di resistenza, una resistenza al capitalismo patriarcale bianco. Il libro è interessante perché è una genealogia della post-pornografia. Si concentra principalmente a Barcellona, ma non manca di descrivere quelle che sono state le esperienze, diciamo, americane. Però è interessante perché il percorso che propone Lucia Egaña Rojas parte, diciamo, da un'analisi di quella che è la pornografia convenzionale, cioè quella che comunque è industrializzata e orientata al profitto. E quella che in un certo senso, diciamo, cerca di riprodurre una certa divisione gerarchica dei ruoli. Il post-porno invece è, diciamo, quella pratica che guarda, diciamo, alla dissidenza dei corpi, dei generi, dei ruoli. Il post-porno, diciamo, è disorientante perché comunque entra spesso in uno spazio pubblico e usa, diciamo, il corpo e delle forme, diciamo, di sessualità non codificata per distruggere uno schema, per entrare in conflitto con la normatività. Il libro mi è piaciuto perché può aiutare a ripensare criticamente la propria sessualità, ma anche quella collettiva. Te lo consiglio, buona lettura.